realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi ritorno su un tema su cui spesso mi sono soffermato. Cerco di farlo in maniera leggiadra, se possibile, anche se il tema non è affatto leggiadro, perlomeno come in questi giorni vedo che lo si sta affrontando sui mezzi di comunicazione. Parlerò della legge di cui si è molto parlato, del cosiddetto divorzio breve. È stato dato il primo via libera alla Camera, pare ci sia un accordo bipartisan sul fatto che si comincia anche in Italia a essere, dal punto di vista del diritto matrimoniale, un paese quasi civile. Non esiste questa sorta di lungo tempo di ripensamento che impone persone che non hanno più ragione di stare assieme, dover passare ancora 3 anni della propria vita a riflettere sul fatto che probabilmente potrebbe un giorno aprirsi il cielo, scendere un angelo con la spada e dire: ripensateci, potreste ancora in nome del sacrificio stare assieme. Perché alla fine la sintesi è questa, perché non si vede ragione per cui due persone che probabilmente hanno già altre storie, in molti casi la gente arriva alla fine dell'iter del divorzio che hanno già altre famiglie, altri figli, altri nuclei familiari. Insomma, vorrei capire perché esiste nel nostro paese ancora questa idea che l'unione fra un uomo e una donna debba essere qualcosa comunque con una sorta di portato metafisico. Io non voglio fare a tutti i costi il razionalista o il mangiapreti, sono tutt'altro che questo. Io mi sono sposato in chiesa, figura, lo dico così, metto subito uno stop a tutti coloro che potrebbero accusarmi una sorta di attività anticristiana, anticattolica, contro i principi fondamentali. Ma io dico semplicemente, anzi dirò di più, sarei dell'idea, ma questa è una mia personalissima idea, che chi dà un senso religioso profondo, di unione metafisica, di unione eterna, di vincolo indissolubile al matrimonio, lo faccia, è giusto che lo faccia. Sono molto felice, mi piace questa idea del suggello eterno a un'unione tra un uomo e una donna, ma lo faccia staccato da ogni conseguenza civile, da ogni legame con il diritto, che è un'altra cosa. Quindi è questa sorta di convivenza forzata dei due ambiti, dell'ambito civile e dell'ambito sacrale, religioso, liturgico, rituale del matrimonio, porta a delle situazioni dolorosissime. Abbiamo nel nostro paese delle situazioni al limite. Oggi ne cercheremo di sottolineare qualcuna, di ricordare qualcuno. Cercheremo per quanto possibile di basarci sulle testimonianze di chi ci telefona. Vi trovate voi nella situazione di avere un matrimonio fallito alle spalle, un matrimonio che non ha più senso di essere alle spalle? Quali sono i problemi che vi ponete? Cos'è che voi vorreste come massima felicità per voi, per i vostri figli, per la vostra serenità, per il bene della società? 800240024. Un percorso lungo 40 anni, con tanti stop e marce indietro, ma stavolta il passo sembra rilevante. Basterà un anno di separazione per ottenere il divorzio. È quanto approvato oggi in Commissione Giustizia alla Camera riguardo alla proposta di legge sul divorzio breve. L'attesa per chiedere il divorzio si ridurrebbe da 3 a 1 anno di separazione, ma solo nei casi in cui i due coniugi non abbiano figli o questi siano maggiorenni. 2 anni di separazione in caso di figli minorenni. Ora si attendono i pareri delle commissioni competenti, poi la parola spetterà all'aula di Montecitorio. Un piccolo successo della commissione, dice il presidente Giulia Bongiorno, un provvedimento di civiltà giuridica che ha visto gruppi, anche con diverse posizioni, che concordavano sulla necessità di ridurre i tempi. L'auspicio è che ora si vada in aula. Una battaglia iniziata negli anni 70 e voluta per primi dai radicali, in un paese come l'Italia in cui ogni anno aumentano separazioni e divorzi. Ecco, lo sta dicendo il servizio che abbiamo messo. I dati dell'Istat lo dicono molto chiaro, che in Italia c'è un numero considerevole di matrimoni che falliscono. Il perché falliscono poi è un altro problema, non ci interessa in questo momento di affrontarlo. Analizziamo il dato di fatto. Ci può essere una caduta etica, ci può essere stata una secolarizzazione, la gente non crede più ai vincoli eterni, non crede più al senso del sacrificio. Io sono dell'idea, me l'ho detto più volte, espresso più volte, che è il modello famiglia da rivedere, da ripensare, è qualcosa che non sta più in piedi economicamente, perlomeno come è strutturato adesso, socialmente, strutturalmente. totalmente e non risponde più ai nostri desideri, alle nostre necessità di organizzarci la vita. Non dico che passeremo noi sulla nostra pelle questa sorta di svolta epocale, continueremo a pensare che la famiglia sia l'unico esito possibile nella nostra vita relazionale, ma io penso che prima o poi accadrà, in un futuro ma nemmeno troppo remoto, che si rivedrà il modello di famiglia, sarà organizzata l'umanità in una normale struttura sociale destinata comunque a procreare, a fare dei figli, a organizzarsi strutturalmente, a occupare delle case, a fare della vita sociale, ma in maniera lievemente diversa rispetto a quella che è adesso. Non so se è d'accordo con me l'avvocato Gianettore Gassani. Buongiorno. Buongiorno. Ricordo ospite ormai, nostro consueto ospite, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati e Matrimonialisti, ha scritto un libro, I Perplessi Sposi, indagine sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizione Liberti. Io sto notando che lei viene spesso in trasmissione da noi. Noi seguiamo dei flussi non sempre determinati da una nostra volontà precisa di indirizzare la trasmissione. Andiamo sugli argomenti che sentiamo più nell'area. Non è forse un caso che quest'anno l'idea del matrimonio, la regolamentazione dei matrimoni andati a male, o in generale della revisione dell'aspetto matrimoniale, sia un tema molto sentito? Sì, la famiglia ormai è il tema del giorno. Ogni giorno si discute di problematiche che riguardano un po' quella che è una struttura invincibile, indiscutibile del nostro paese. La famiglia italiana è sempre stata un po' la risorsa di noi italiani ed evidentemente nel momento in cui viene messa in discussione questa istituzione è chiaro che i mass media e gli addetti ai lavori aprono dibattiti molto importanti. Certamente condivido in pieno l'analisi che lei ha fatto prima sul modello familiare probabilmente arcaico che andrebbe rivisto. E la questione del divorzio breve indubbiamente si inserisce in questo solco, sta cambiando anche il modo di far finire il matrimonio. Siamo passati dai 5 anni dell'87 a un anno, se passasse questa riforma, è già un buon passo in avanti, anche se credo che si tratti di un compromesso all'italiana. Ecco, quale sarebbe per lei? Mandando contro il suo interesse, mi rendo conto che per un avvocato matrimonialista i 5 anni era una pacchia inesauribile. 5 anni, pensi lei, 5 anni di udienze, di sotterfugi, sì, di invenzioni. Adesso in un anno è chiusa. Però quale sarebbe l'ideale? Se lei, dimenticando un attimo di essere avvocato, il suo profitto, il suo lavoro e tutto, quale sarebbe la soluzione? A parte il fatto che l'ho scritto nel libro che è stato pubblicato molto prima di questa proposta di legge. Sappiamo che causa che pende, causa che rende. Ovviamente però, se vogliamo fare un discorso di civiltà giuridica e sociale, non possiamo che augurarci non solo il divorzio breve, che ripeto mi pare un compromesso all'italiana, quanto auspicare l'abrogazione tout court della fase della separazione. Perché la separazione? Perché dobbiamo riflettere? Noi non siamo dei cittadini che possono vivere sotto questo paternalismo. Io perché devo riflettere prima di prendere una decisione della mia vita? Queste cose succedono soltanto in Italia, in Irlanda del Nord e in Polonia. In tutta Europa, inclusa la cattolicissima Spagna, si divorzia e basta, a volte anche in 3 mesi, a volte online. Ma allora per quale motivo l'italiano deve ridurre da 3 a 2 a 1? Come è il principio che è sbagliato? Non è una questione di tempo. Anche perché, avvocato, mi scusi, mettiamo per assurdo che io e un'altra persona decidiamo di divorziare e in 30 secondi attraverso una form online divorziamo. Ma se cambiamo idea dopo una settimana possiamo risposarci. Chi ce lo impedisce? Ma infatti sa perché c'è la separazione? Per una grande ipocrisia storica. La gente che si separa potrebbe ripensarci. Nel 98% dei casi non è così. Allora noi per il 2% dei casi, le persone che ci ripensano, che facciamo? Facciamo stare un popolo ad aspettare 10 anni prima di ottenere lo stato libero? Ma io le dico qual è la risposta, cioè così si banalizzerebbe qualcosa di sacro che è l'unione fra uomo e donna. Ah, ecco. Si banalizzerebbe, ecco. Diventerebbe una cosa usa e getta, il matrimonio usa e getta. Io già vedo i tentativi o le proposte di guerra senza quartiere a questa proposta, dice, si banalizzerebbe l'unione. Ma l'unione si banalizza se è banale il sentimento, esatto, o il desiderio delle persone si vogliono unire. Un'unione non è mai banale se le persone non banalmente stanno assieme. C'è sempre, in questo il maestro Giannino che ci precede nella trasmissione lo dice sempre, questa sorta di stato etico. In questo caso si mette anche una bella tiara sulla testa e decide che lui deve essere colui che si prende la responsabilità di dirci come devono essere le cose, anche nella nostra sfera affettiva e relazionale. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi. La sto ascoltando. Sì, ma guardi, io vorrei portare, intanto condivido pienamente con il suo ultimo pensiero, un'unione non è mai banale, che se ne dica, e vorrei portare la mia, cioè, chi si unisce decide quanto sia banale, lo sa, certo. Nessuno meglio di noi può deciderlo. Ma assolutamente. Io invece vorrei portare la mia esperienza da figlio in questo caso. Io ho vissuto in pieno, ero molto piccolo, avevo poco più di 4 anni, la separazione e quindi poi il divorzio dei miei genitori, che fra una lungaggine e l'altra è durata oltre 7 anni. E posso assicurarvi che al di là dello stress, della demotivazione, delle difficoltà incontrate anche, se vogliamo, anche psicologiche in alcuni momenti, in particolare da mia madre, durante tutta questa situazione, e poi sommiamo anche il vissuto che ho avuto io da bambino, è stata davvero una situazione molto molto pesante, che non abbiano veramente senso delle tempistiche così lunghe. Se poi si vuole evitare la possibilità per le persone di fare dei giochetti, che so, con matrimonio tra chi si lascia presto, per poi risposarsi in maniera abbastanza veloce, eccetera, ma può aver senso un periodo di stop fra un matrimonio e l'altro, però. Beh, è un punto di vista. Guarda, io le faccio un esempio. Ho letto, lo dico in maniera sommaria perché l'ho letto fuggevolmente, ma se un attimo corroboro il mio ricordo guardando in internet. Il Comune di Roma finanzia a delle associazioni private, ma con intento etico e religioso sicuramente, dei corsi prematrimoniali, perché sente il dovere che le persone debbano essere istruite prima del matrimonio sull'importanza del matrimonio, giustissimo, ma io troverei un miglior investimento investire in delle strutture di supporto proprio nelle situazioni in cui i matrimoni si interrompano, perché non è che fare delle belle chiacchierate teoriche su quanto sia bello, importante e indissolubile sposarsi, per questo finanziare dei corsi prematrimoniali, aiuti poi l'istanza e la sostanza del matrimonio. Le faccio un altro esempio. Ho conosciuto, non dirò mai i nomi nemmeno sotto tortura, persone, insigni e illustri colleghi di provata e indiscutibile fede che si sono sposati, naturalmente sotto tutte le impossibili benedizioni, perché sono fortemente credenti, ma pare sia prassi, soprattutto negli ambienti molto legati, nelle associazioni che hanno un forte controllo reciproco riguardo la tenuta morale e etica, andare da un notaio prima di sposarsi e fare un atto in cui gli aspiranti sposi scrivono tutte le cose peggiori possibili: siamo sposati per forza, non ci andava, non siamo convinti che il matrimonio sia indissolubile, e siamo gay, quello che vogliono. Lo tengono come riserva che se un domani, per qualunque ragione, l'unione vada male, con quello possono tranquillamente sciogliere il loro matrimonio anche di fronte a Dio. Perché? Perché non c'era un consenso. L'avvocato ha mai sentito qualcosa del genere? Certo, l'ho sentito. E non c'è neanche bisogno di andare al notaio, basta mandare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a un amico, a un parente. Mi sposo per forza. Mi sposo per forza o non sono particolarmente convinto. E si può utilizzare questa lettera anche in giudizio, anche se non faccio diritto ecclesiastico, ma ormai queste sono notizie abbastanza diffuse. Addirittura c'è gente che utilizza Facebook per dire a un amico, confidare a un amico in un messaggio privato: io sposo quest'uomo ma non lo amo, sposo questa donna ma non l'amo. Io ho troppo rispetto e troppa anche curiosità e affezione per le visioni trascendentali dell'esistenza, per non poter non sottolineare quanto ci sia di ipocrisia in questo. Se sei veramente fortemente convinto, non vedi l'ora di sposarti, non vedi l'ora di incamminarti in questo cammino luminoso che ti porterà assieme a una donna verso anche una vita eterna assieme, un progetto benedetto e tutto. Se tu già poni questo pregiudizio, vuol dire che per te la religione è soltanto un aspetto esteriore, è un lubrificante sociale per vivere meglio, per avere un migliore occasione di lavoro, per avere qualcuno che ti protegge, per avere il culo sempre parato, per avere sempre qualcuno che ti aiuterà perché sei dalla parte giusta, ma non puoi credere, non puoi prendere in giro il Padre Eterno. Roberto. Buongiorno, io volevo intervenire un po' sul senso della vostra trasmissione, di quello che state dicendo. Condivido un fatto, cioè che la società tiene meno, i rapporti sono sempre più liquidi, per dirla con Bauman, e quindi in questo quadro è chiaro che stare 3 anni a riflettere su cosa? Non si è riflettuto prima di stare insieme, si può anche non riflettere quando ci si lascia, questo potrebbe essere un po' il senso. Tuttavia però non credo che sia da banalizzare il senso dell'unione matrimoniale, anche perché... Ma io l'ho detto come premessa. Sì, no, però potrebbe passare in qualche modo il messaggio che il matrimonio e il divorzio si equivalgono e sono tutte e due legati in qualche modo al sentimento delle persone che decidono di unirsi o di lasciarsi. Non è proprio così, non è storicamente così, non è giuridicamente così. C'è un grande giurista, Torrente, che diceva: il matrimonio è un'istituzione, il divorzio resta un istituto. Non vuol dire niente. Lo diceva, in che anno lo diceva però? Torrente era un testo che ho avuto anche nelle mani all'università, quindi allora, era scritto negli anni 40, immagino qualcosa del genere. No, un po' più avanti, però lo diceva nelle lezioni all'università. Però se vogliamo allora dirla con il laicissimo Vittorino Andreoli, che qualche anno fa ha scritto sull'unione della differenza tra uomo e donna e sul matrimonio, ne rintracciava una verità atavica di questa unione. Quindi non sarebbe proprio, secondo me, da mettere in questo senso. Evidentemente è una mia opinione. Sì, ma io ne sono convinto, guardi, di questo ne sono profondamente convinto, eh. Lo penso anch'io, ho detto che vedo con grande felicità le persone che fanno un progetto per loro eterno. Però c'è un dato di fatto che questa cosa per molti non funziona. E per quelli per cui non funziona, io non posso prendermi una responsabilità come Stato di dire no, deve essere così, così è scritto a lettere di fuoco nel libro della legge. È un problema di coscienza individuale, personale. Chi questo crede è giustissimo, ammirevole, faccia tutte le possibili attività di propaganda del suo modo di vedere la vita. È giustissimo, lo faccia così. Però non può tecnicamente, giuridicamente incidere su quello che è un dato di fatto che provoca grande infelicità. Questo è il mio punto di vista. Fermo restando che rispetto tutte le scelte, naturalmente. Ilie, scusi. Sì, buongiorno. Ilie. Sì, io sono rumeno, chiamo da Torino. Io volevo semplicemente portare la mia testimonianza in quanto succede in Romania nei casi di divorzio dove non ci sono in mezzo dei figli. Se le persone vanno d'accordo sulla separazione dei beni, semplicemente si presentano nel comune dove il matrimonio è avvenuto e si paga una marca da bollo, che adesso il costo varia da un comune all'altro, comunque è bassissimo, intorno ai 10-15 euro. 5 minuti se ne viene fuori già divorziato. Come lo scioglimento di una società? Sì. Anzi, forse una società ci vuole più tempo. Ci sono i libri contabili, c'è tutta una serie di attività su cui bisogna rispondere. Gianetto Regassani, vediamo un po' di riassumere quello che abbiamo sentito dalle voci degli ascoltatori. Innanzitutto io penso che il matrimonio resta un'istituzione e su questo non si discute. Il problema è un altro, è stabilire quando il matrimonio non funziona che cosa bisogna fare. Allora, io credo che tutti gli altri paesi d'Europa, anche quelli cattolici, hanno preso una decisione. Hanno capito innanzitutto che prolungare i tempi della giustizia significa alimentare il conflitto, significa alimentare l'odio. Immaginiamo quelle persone che prima di ottenere lo stato libero devono salire e scendere da un tribunale 30-40 volte, devono dissanguarsi con le spese legali, devono andare dallo psicologo, devono contendersi i figli. Io credo che dovremmo riflettere. Si fanno la guerra con i consigli che date voi avvocati matrimonialisti per distruggersi a vicenda. Ma molte volte fa parte deve sapere che l'80% delle separazioni non viene fatta dai matrimonialisti e da avvocati tuttologi. Ah sì? Sì, perché in Italia non c'è neanche la cultura del cliente di andare all'avvocato specialista. Non c'è specializzazione in niente in questo paese. Si va dall'amico di solito. Si va dall'amico, dal compagno di classe, da quello che è simpatico, quello che gli ha fatto togliere una multa. Insomma, si va dall'avvocato come se l'avvocato fosse onnisciente. Allora, a parte questo discorso, credo che l'Italia inevitabilmente dovrà allinearsi agli altri paesi. Sapete perché? Perché se gli italiani da qualche anno vanno all'estero a divorziare, un motivo ci sarà. Quindi o noi creiamo per gli italiani una legge compatibile con gli altri paesi, altrimenti gli italiani prendono e vanno a divorziare all'estero, come già stanno facendo da anni. Negli ultimi 6 anni si calcola che circa 8.000 coppie abbiano optato per il divorzio tout court all'estero. Ma come si fa? Il regolamento 44/2001 del CE stabilisce che le sentenze emesse dai giudici della Comunità Europea valgono in tutti gli altri paesi, e ciò riguarda anche separazioni e soprattutto divorzi. Per cui se io dopo 6 mesi di residenza a Parigi piuttosto che a Bucarest mi metto d'accordo con mia moglie e vado dall'avvocato straniero, l'avvocato straniero può iniziare la pratica di divorzio, il giudice straniero emette in 3-4 mesi, 6 mesi massimo, una sentenza, torno in Italia, faccio tradurre la sentenza, la deposito dell'ufficiale dello Stato di Anagrafe e quel divorzio è efficace a tutti gli effetti. Ma c'è chi lo fa questo? 8.000 coppie in 6 anni. Cioè, ma cosa sono quelli, diciamo... Si chiama turismo divorzile, che si può in qualche modo sovrapporre al turismo procreativo. Insomma, gli italiani ogni volta che vogliono esercitare i propri diritti devono andare all'estero. Questa è una cosa abbastanza inedita, avvocato. Vorrei ritornarci, approfondirla un po' di più, perché esiste una punta, forse più culturalmente, con mezzi economici più avanzati, culturalmente più aperta, che usa questa sorta di transumanza divorzistica nei paesi europei. Ma ci sono addirittura delle agenzie che organizzano questo, studi legali stranieri. Noi avvocati italiani ci vediamo passare davanti tantissimi italiani che vanno a divorziare. Insomma, questo è un insulto alla culla del diritto. Perché gli italiani vogliono andare addirittura in Romania, dove questo tipo di pratica costa ancora di meno rispetto agli altri paesi? Perché non accettano, non solo una questione di costi e di tempi, ma non accettano il concetto di dover espiare una colpa per aver deciso di interrompere il matrimonio. Il problema sa qual è? Che in Italia il divorzio viene sempre visto come una sconfitta, ma a volte per molti anche una rivincita. Se non la vediamo così, è evidente che poi quando un uomo o una donna vengono lasciati succede la guerra, la terza guerra mondiale, perché gli italiani non sanno accettare il distacco. 800 24 00 24, ci fermiamo soltanto un istante, no, abbiamo ancora 30 secondi. Secondo me, una caratteristica di questa generazione è che appena non ci amiamo più, ci separiamo. Ma quando hai delle creature, c'è la coppia e c'è la famiglia, non si può ragionare così. Lo dico da donna di sinistra, laica, per cui non sono per la difesa della famiglia a tutti i costi nel senso cattolico e tradizionale del termine. Nel momento in cui sei soli, cioè soltanto tu e lui, quando capisci che non ti ami più, ok, ti separi, d'accordo. Ma quando oltre alla coppia c'è la famiglia, prima di buttare tutto via, io dico, pensiamoci. Questo pensiamoci mi sembra che molto spesso non ci sia. Forse perché io sono figlia di genitori separati e so che cosa vuol dire. Anche perché i miei si sono separati quando io avevo 16 anni. Molte di queste coppie saltano senza che la gente si sia fatta prima questa domanda. Sei sicuro di aver fatto tutto il possibile, non tanto per te, per il tuo amore, ma per tua figlia o per i tuoi figli e per la responsabilità che hai verso di loro? Questo brano è tratto da un libro di Elena Marzi, I divorziati, storie di affitti, affidi, weekend e soldi. La situazione è complessa, è chiaro, è molto più complessa. La situazione non è un colpo di spugna che si cancella quando c'è una vita vissuta assieme. Ci sono investimenti fatti, investimenti emotivi, affettivi, patrimoniali. Melog, la realtà condivisa. Quando scoprì che mio marito mi tradiva fu uno shock. Poi, riflettendo, capii che se lui era arrivato a tradirmi, era anche perché c'erano alcune cose che non andavano tra noi. E teoricamente io l'avrei anche perdonato per questa cosa. Provammo a ricominciare, ma le cose non andavano bene. E appena uno diceva una parola in più, l'altro infieriva mostruosamente. Ci siamo proprio fatti grossi dispetti. Tanto per fare un esempio, lui pensò bene di farsi una storia con una mia collega. Lo fece nei momenti difficili della separazione, quando veramente ti fai del male gratuito. Ecco, dalla mia esperienza ho imparato una cosa. Uno dovrebbe essere capace di dire, quando capisce che le cose non vanno, basta, ognuno per la propria strada. Perché se non sei capace di farlo, è il momento in cui ti fai più male in assoluto. Il rancore e la rabbia comunque ce li hai dentro. E se non sei capace di dire basta e separare immediatamente le strade, ti fai del gran male. Cosa che noi ci siamo fatti reciprocamente e soprattutto inutilmente. 800 24 00 24, oggi parliamo di matrimonio. Di matrimonio quando finisce la volontà di stare assieme, di matrimonio che può durare anche in eterno. Abbiamo fatto ascoltare la testimonianza di una donna che crede nei tempi di riflessione quando il matrimonio è in crisi. Abbiamo fatto ascoltare adesso la testimonianza di un'altra donna che in realtà non vede l'ora che si possa chiudere questa parentesi. Entrambe le testimonianze sono prese dal libro di Elena Marzi, Divorziati, storie di affitti, affidi, weekend e soldi. Questo fa pensare che in realtà il matrimonio è una fattispecie molto complessa, fatta di una spinta sentimentale, amorosa, erotica, etica, un desiderio di suggello che vada oltre anche il condizionamento temporale, perché ha una visione profonda di questo tipo di istituzione, per cui anche un sacramento, diciamo le parole con il loro nome. una scelta frettolosa, affrettata, molte volte spinta da esigenze familiari, perché bisogna sposarsi, così facciamo contenti i genitori, perché tutti si sposano, perché ora che ti sposi, perché in certe professioni e nella ricerca di certi status occorre avere sempre una moglie vicino, con una famiglia, perché sennò in certi ambienti è imbarazzante con i colleghi presentarsi da single, tutta una serie di ragioni per cui c'è una percentuale altissima comunque di matrimoni che vanno male. C'è una proposta di legge che già sta seguendo il suo iter per accelerare e stringere i tempi di attesa tra il momento in cui si decide di separarsi e il momento in cui ci si separa a tutti gli effetti. Da 5 anni si può arrivare a 1 anno. Abbiamo in studio un avvocato matrimonialista, anzi il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, Gianetto Regassani. Abbiamo il pubblico, abbiamo molte reazioni che ci attaccano, ci dicono: voi mettete in crisi un'istituzione come il matrimonio, dissacrate il matrimonio. Ma io ripeto, e lo ribadisco se fosse necessario, credo profondamente che possa esserci un punto di vista che ritenga sacro il matrimonio. Non lo discuto, ma non può essere un punto di vista che condizioni la vita di tutte le altre persone. Sergio, buongiorno. Buongiorno, volevo portare una testimonianza un po' comune, un po' atipica, perché io ho 45 anni e 2 figli, un matrimonio che io considero chiuso da tempo. Ero riuscito, tramite una azione giudiziaria, quindi con una separazione diciamo unilaterale, ad ottenere la separazione, ma durante questo periodo sono stato letteralmente massacrato da tutti quanti, dal coniuge, dai miei genitori. Vabbè, scusi, usando sempre come strumento ricattatorio. Ricatto subisce chi ha un'attitudine a farsi ricattare. Non esiste alla sua età un genitore che può ricattarla, non esiste un coniuge che può ricattarla. Però è difficile superarla, sa? Ci vuole, certo. Perché... Ma la guerra ci si va con le armi, mica ci si va con i fiori in mano. Ho capito, però diciamo che è stata, più che guerra, è stato un massacro, perché poi alla fine mi sono ritrovato da solo contro tanti personaggi. Alla fine sono dovuto tornare indietro sui miei passi e vivo sostanzialmente una situazione paradossale dove so... Una compagna quasi ufficiale esterna e una moglie che professa un amore eterno e che non mi lascerà mai, o meglio non mi lascerà andare mai. Ma sa che lei è un'altra, fa presente un'altra famiglia a tutti gli effetti, sua moglie? Ma più che sì, se è famiglia, è anche quello una storia comunque tormentata. E però approfitto anche della presenza dell'avvocato in studio, volevo chiedere se c'è qualche novità anche per quelle separazioni che vanno avanti per via giudiziaria, se c'è una maniera per interrompere o per comunque rinsultare. Guardi, adesso prima le farle rispondere dall'avvocato, poi dopo andiamo avanti. Io, il mio punto di vista non è di tipo legale. Ma il problema è tutto suo. Lei si è voluto imprigionare in una sorta di incubo per non aver avuto il coraggio, non aver messo le palle sulla sua felicità. Lei lo decide a un certo punto. Se faceva delle scelte per lei, faceva delle scelte per tenere insieme tutto. Lei ha voluto il consenso dei genitori, il consenso dell'ex moglie, il consenso degli amici, il consenso dei consiglieri, e vive nel suo inferno che si è procurato da solo. Avvocato. Ma non ci sono allo Stato rimedi contro le separazioni giudiziali. L'unica cosa che si potrebbe fare è usare il buonsenso, il cervello, rivolgersi alla mediazione familiare. Ma purtroppo queste sono guerre stupide, perché si vogliono sempre certificare vinti e vincitori, buoni e cattivi, genitori di serie A, genitori di serie B. Fino a quando noi italiani non ci liberiamo da questa mentalità, che è solo italiana, noi non usciamo fuori da questo impasse. Perché purtroppo le separazioni giudiziali servono semplicemente per farla pagare all'altro. È una sorta di vendetta giudiziaria, con la certificazione finale dell'addebito, in nome del quale gli avvocati sono armati fino ai denti per portare la testa della controparte all'altra, al proprio cliente. Questo è il problema. Quindi io credo che l'unica cosa da fare è fermarsi, cominciare a ragionare, anche perché poi chi paga le conseguenze di tutto questo sono i bambini, che l'avvocato non ce l'hanno. Patrizia. Buongiorno. Patrizia, come mai? Le posso fare una domanda? Che non c'entra con la sua telefonata. Lei è la prima donna che telefona in questo momento. Chiamano soltanto uomini. Ho fatto cielo. Mi scuso per l'intrusione. No, mi scuso, le sono gratissimo di aver aperto finalmente una parentesi della quale ero curioso. Ma perché le donne di questo non parlano? Ma io rimango piuttosto stupita, perché noi donne in genere siamo famose per parlare di tutto, di più e anche troppo, no? E, però vabbè, lo valuterà lei nel corso della trasmissione, si farà poi... Beh, mi dica il suo punto di vista, okay. Vediamo. Dunque, ascolti, il mio punto di vista, io ho chiamato semplicemente per dire alcune cose. La prima è che dopo più di 40 anni che si parla di separazione, si parla di divorzio, ancora non si è capito che bisogna saltare la fase della separazione e di arrivare direttamente al divorzio, perché la gente non arriva oggi come oggi alla separazione semplicemente perché sulla base di un litigio. Anche se ammettiamo tutta la leggerezza che si vuole il comportamento, cioè sei già separati in casa quando si decide di divorziare, bravo, da ecco, tempo dopo, a questo aggiungiamo anche, e allora ci dice no, basta, divorzio breve. Ma questa che proposta che stanno portando non è il divorzio breve, questo è un accorciamento dei tempi di separazione, ma esatto. L'impianto, il meccanismo rimane il medesimo, diciamo, la filosofia, il principio che si nasconde. Ascolti, io le dico molto molto brevemente. Io ho avuto la mia prima esperienza politica nella Lega Italiana per il Divorzio. Ero una ragazzina, avevo 17 anni, 18 anni, capito? Quindi, e ci andavo con l'allora mio fidanzato, che è ancora mio marito, ringraziando Dio. E quindi queste cose me le ricordo molto bene, mi ricordo vivissimi dentro di me il ricordo dei dibattiti, che perché allora era un'epoca dove si discuteva molto, che si andavano a fare in tutti i circoli, nelle sezioni. Io ricordo movimenti di piazza, gente che si bastonava per le piazze. Ora, non mi sono mai bastonata, grazie per, a te. No, per il divorzio ci furono, io mi ricordo, era il giorno della festa dei Goliardi a Perugia, c'erano tutti i carri con gli studenti e tutto, ci fu una grande manifestazione, massacrarono, bastonate, ci fu perché allora c'era l'MSI che era naturalmente contrario, certo, quindi l'MSI Fanfani quando disse che vostra moglie scapperà con la cameriera, cioè sono cose che poi devo dire che su questo ho anche maturato un'esperienza, diciamo, a latere professionale, nel senso che io ho lavorato fino a gennaio nel comune dove risiedo, occupandomi di assegnazioni di case popolari, quindi di graduatorie, quindi documentazioni infinite, casi infiniti. Però nella dimostrazione ha detto che sta ancora con suo marito, che non necessariamente uno deve partire da una propria esperienza negativa per esprimere. Mi diceva prima l'avvocato, lei è ancora una delle poche persone che ha la fede al dito. Sì, in effetti c'ho ancora la fede al dito, cioè, quindi figuriamoci, non è che lo dico per me, per salvare una mia situazione, lo dico perché mi piace che la gente sia felice, mi piace che il principio della libertà sia sempre impugnato e perseguito anche dai governi, sarebbe la cosa ideale. Gianfranco, buongiorno. Allora, premetto che non sono un cattolico osservante e dal punto di vista laico credo che il divorzio sia una cosa giusta. La mia esperienza però personale è che ho subito un divorzio, non ho figli, quindi niente di grave, consensuale, anche se io ero contrario. Quello che mi è capitato, e mi rendo conto che la mia evidentemente è un po' controcorrente e non è giusto per il 2% degli italiani o dell'1% di chi divorzia fare leggi che valgono per tutti, questo è chiaro. Però quello che a me è successo come esperienza personale è che la mia ex moglie, dopo aver voluto la separazione, ha messo in atto per 3 anni dei tentativi poi mai riusciti di tornare assieme. Cioè, volevo dire questo in sostanza, che da una parte sono convinto che sia giusto... E lei se la sarebbe ripresa? Certamente. E perché non l'avete fatto? Qual è il problema? Perché poi è mancato il coraggio, perché poi... Ma allora con chi ve la dovete prendere? È un problema vostro? Ma con nessuno, ma difatti, quello che intendo dire è questo. Dal punto di vista morale, laico, sono convintissimo che è corretto accorciare, se non abolire, i tempi della separazione. Dall'altro, esperienza personale, ripeto, mi rendo conto che qualche volta la separazione dovrebbe servire a far riflettere. Siamo adulti, siamo vaccinati. Ma voi, lei anche adesso dovrebbe rimettersi con sua moglie, siete d'accordo? Che cosa pensi? Solo una cosa con lei. Non è che vi ghigliottinano vi costerà 20 nerbate a testa. Sono d'accordo con lei. Le telefono, ci rimettiamo insieme. Torna a casa sua, state insieme. Sono d'accordo con lei. Ma qual è il blocco? Lo capisci? Qual è la muraglia? Volevo esprimere questo. No, mi parli di sé, scusi, perché mi incuriosisce. Qual è il problema? non c'è un problema, cioè, quello che a me pare è che abbiamo la difficoltà, cioè molti divorzi scattano, e qui io di questo ne sono convinto, perché abbiamo la difficoltà di metterci in discussione e ci sembra che il divorzio sia la soluzione. Ma se dopo uno si rimette in discussione, vuol tornare assieme, torna assieme, sì. Qual è il problema? Allora, tenti di capirmi, sono d'accordo sul concetto in senso lato, anzi d'accordissimo. La sua applicazione pratica mi vede con un tantino di disagio. Va bene, questo è il suo punto di vista.